Alcuni giorni dopo mi rallegravo con Oscar e Giambattista per il nostro concerto che il musicista di Vienna avrebbe diretto. Monsieur Beethoven è un ometto bassotto con la più disordinata capigliatura che mai sia comparsa alla nostra mensa. La sua faccia è tonda e abbronzata dal sole, è butterato dal vaiolo, ha il naso schiacciato e gli occhi sonnacchiosi. Solo quando gli si rivolge la parola, quei suoi occhi assumono un'espressione intensa e non si staccano più dalle labbra di colui che parla. Poiché sapevo che il poveretto è duro d'orecchi, quasi gli urlai che ero molto lieta della sua visita. Giambattista gli batté la mano sulla spalla e gli domandò che novità ci fossero a Vienna. Naturalmente domandò questo soltanto per cortesia, ma il musicista rispose molto serio: Ci si prepara alla guerra, si aspetta che le armate dell'imperatore si volgano contro l'Austria. Giambattista corrugò la fronte e scrollò il capo. Come suonano i componenti della mia orchestra? Gli chiesi subito in fretta. L'ometto tarchiato scosse soltanto la testa. Giambattista ripeté la domanda alzando la voce più che poteva. Il musicista inarcò le folte sopracciglia. I suoi occhi sonnacchiosi brillarono furbescamente. Ho sentito molto bene, signor ambasciatore. Pardon, signor maresciallo, adesso vi chiamano così, non è vero? I suonatori della vostra orchestra suonano molto male, signor maresciallo. Ma voi dirigerete ugualmente la vostra nuova sinfonia, non è vero? Gli urlò Giambattista. Monsieur Beethoven sorrise con aria soddisfatta. Sì, perché sono curioso di sapere che cosa ne pensate, signor ambasciatore. Monseigneur, gli gridò nell'orecchio l'aiutante di mio marito. Chiamatemi tranquillamente signor Beethoven, io non sono un signor, disse il nostro ospite. Ma al nostro maresciallo si deve dire monseigneur, gridò disperato l'aiutante. Io mi tenevo il fazzoletto davanti alla bocca perché non riuscivo a trattenermi dal ridere. Il nostro ospite fissò i suoi occhi profondi su Giambattista, serissimo. È molto difficile raccapezzarsi con tutti questi titoli quando non se ne ha nessuno e si è sordi, disse. Io vi ringrazio, Monseigneur, di avermi voluto mandare da questo professore di Gottinga. Potete udire la vostra musica? Canterellò qualcuno vicinissimo al forestiero. Monsieur Van Beethoven si guardò intorno cercando. Aveva udito quella chiara voce infantile. Qualcuno lo tirava per la falda. Oscar, io stavo per dire in fretta qualche cosa per fargli dimenticare questa domanda crudele, ma già la grossa testa arruffata si chinava. Hai domandato qualche cosa, bambino? Se potete udire la vostra musica, squillò più alta che poteva la voce di Oscar. Monsieur Beethoven assentì serio. Certo, e anche con molta esattezza, ma qui dentro, e si batté sul petto. E qui, e si picchiò sulla vasta fronte sporgente, e con un largo sorriso, ma i musicisti che suonano la mia musica, quelli non sempre riesco a udirli chiaramente, e ciò è forse un bene, per esempio quando si tratta di suonatori così cattivi come quelli del tuo papà. Dopo la cena prendemmo posto tutti nel grande salone da ballo. I componenti e l'orchestra accordavano inquieti i loro strumenti e lanciavano verso di noi timide occhiate. Non sono abituati a suonare una sinfonia di Beethoven, disse Giambattista. La musica da ballo è più facile. Tre poltrone foderate di seta rossa, fregiate dell'aurea corona della casa di Hannover, erano state collocate davanti alle file degli altri ascoltatori. Giambattista ed io vi prendemmo posto. Il bambino sedeva in mezzo a noi due e quasi scompariva nella vasta poltrona. Monsieur Van Beethoven stava in piedi tra i suonatori dell'orchestra e dava loro, in tedesco, le ultime istruzioni. Sottolineava le sue parole con grandi, pacati gesti della mano. Che cosa dirigerà in sostanza? Domandai a Giambattista. Una sinfonia che ha scritto lo scorso anno. In quel momento Monsieur Van Beethoven si staccò dall'orchestra e venne verso di noi. Avevo da principio l'intenzione di dedicare questa sinfonia al generale Bernadotte, disse pensieroso. Poi ho riflettuto e ho creduto che sarebbe stato meglio forse dedicarla all'imperatore dei francesi, ma si interruppe, guardò fisso davanti a sé meditabondo, parve dimenticare noi e il suo pubblico. Poi di colpo si ricordò dov'era e si allontanò dalla fronte una folta ciocca di capelli. Vedremo. Mormorò e soggiunse: Possiamo incominciare, generale? Monseigneur! Sibilò subito l'aiutante di Giambattista che sedeva proprio dietro di noi. Giambattista sorrise. Prego, incominciate, caro Beethoven. La pesante figura salì senza grazia sul podio del direttore. Noi non vedevamo che la sua schiena, pesante, la larga mano dalle dita stranamente sottili stringeva la bacchetta. Batté sulle giò, si fece un silenzio di tomba, egli allargò le braccia, le lanciò in alto e incominciò. Non so giudicare se i nostri musicanti abbiano suonato bene o male, so soltanto che quell'uomo tarchiato, con le braccia che si muovevano protese, li sferzava e li faceva suonare come non ho mai udito suonare in vita mia. Era un rombare come di musica d'organo e insieme era canto di violini, era un'osanna e un gemito, un allettamento e una promessa. Mi premevo le mani sulla bocca perché le mie labbra tremavano. Questa musica non aveva nulla a che fare con la canzone di Marsiglia, eppure essa deve aver echeggiato così, pensavo, quando quelli andarono a combattere per i diritti dell'uomo e seppero tenere le frontiere della Francia, come una preghiera e come un inno di trionfo. Mi chinai un po' in avanti per guardare Giambattista. Il viso di Giambattista era come impietrito, teneva le labbra serrate, il naso gli risaltava audace e sottile, gli occhi gli ardevano, la sua destra posava sul bracciuolo della poltrona e lo serrava così forte che gli si gonfiavano le vene. Nessuno di noi si era accorto che sulla porta era comparso un corriere. Nessuno aveva notato che l'aiutante colonnello Villat si era alzato cautamente e aveva ritirato dal corriere una missiva. Nessuno vide che l'aiutante gettò soltanto uno sguardo al plico sigillato e subito si accostò a Giambattista. Nella breve pausa che intervenne tra i due tempi della sinfonia, udì un rumore di carta spiegazzata. Giambattista ruppe solo adesso il sigillo del plico e aperse la lettera. Monsieur Van Beethoven si era voltato e lo guardava con aria interrogativa. Giambattista gli fece un cenno di assenso. Continuate a suonare. Monsieur Van Beethoven levò la bacchetta, allargò di nuovo le braccia. I violini esultarono. Giambattista leggeva. Per un breve istante alzò gli occhi. Sembrava che ascoltasse con nostalgica angoscia quella musica di paradiso. Poi prese la penna che l'aiutante gli porse e scrisse alcune parole sul taccuino degli ordini che porta sempre con sé. L'aiutante scomparve con l'ordine. Senza far rumore, un altro ufficiale prese il suo posto, vicinissimo a Giambattista. Anche questo ufficiale scomparve con un foglietto di carta scritta e un terzo si piantò sull'attenti, vicino alla poltrona di seta rossa. Questo terzo batté perfino i tacchi e si udì un tintinnio tra la musica celestiale e la bocca di Giambattista si contrasse, irritata. Poi egli continuò a scrivere e soltanto quando questo terzo ufficiale fu scomparso riprese ad ascoltare. Non stava più col busto eretto sulla poltrona e con gli occhi ardenti d'entusiasmo, ma un po' piegato innanzi e con le palpebre socchiuse. Si mordicchiava il labbro inferiore. Solo da ultimo, ancora una volta esultava il canto della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità, egli levò ascoltando il capo. Ma non per la musica, io lo sentivo con certezza, bensì per una voce che gli parlava nell'intimo. Non so che cosa gli dicesse questa voce. Era accompagnata dalla musica di Beethoven e Giambattista sorrideva amaramente. Scrosciarono gli applausi, io mi tolsi i guanti per poter battere le mani più forte. Impacciato e confuso, Monsieur Van Beethoven si inchinò ai musicanti dei quali era così poco soddisfatto. Questi si alzarono rumorosamente, si inchinarono anch'essi e noi applaudimmo ancora di più. Intorno a Giambattista stavano ora tutti e tre gli aiutanti. I loro volti erano intenti e contratti, ma Giambattista si fece innanzi, tese la mano e aiutò il maldestro Beethoven, più giovane di lui, a scendere dal podio, come se si fosse trattato di un alto dignitario. Grazie, Beethoven, disse soltanto, di tutto cuore, grazie. La faccia butterata parve improvvisamente più liscia, più riposata. Gli occhi profondi scintillarono vivaci e perfino lieti. Ricordate, generale, quella sera che alla vostra ambasciata di Vienna mi avete suonato la Marsigliese? Ah, con un dito sul pianoforte, non so fare di più, rise Giambattista. Quella fu la prima volta che ho udito il vostro inno, l'inno di un popolo libero. Gli occhi di Beethoven non si staccavano dal volto di Giambattista. Giambattista lo superava assai di statura ed egli doveva addirittura alzare la testa per parlargli. Ho pensato spesso a quella sera, mentre stavo scrivendo questa sinfonia. Per questo la volevo dedicare a un giovane generale del popolo francese. Ah, non sono più un giovane generale, Beethoven. Beethoven non rispose. Impassibile, continuava a guardare Giambattista. Perciò questi pensò che il musicista non avesse udito bene. Gli gridò ancora: Ho detto che non sono più un giovane generale. Beethoven non rispose neppure adesso. Vidi che dietro a Giambattista i tre aiutanti incominciavano a muoversi impazienti. Poi venne un altro e portò il messaggio del vostro popolo di là, da tutte le frontiere, disse Beethoven gravemente. Perciò io pensai che a lui avrei dovuto dedicare la mia sinfonia. Che cosa ne pensate, generale Bernadotte? Monseigneur, corressero i tre aiutanti di Giambattista addirittura in coro. Giambattista fece loro un segno stizzito. Di là da tutte le frontiere, Bernadotte, ripeté Beethoven con serietà. Quella sera a Vienna mi avete esposto i diritti dell'uomo. Prima d'allora ne sapevo ben poco. Non mi occupo mai di politica, ma questo, ecco, questo non ha niente a che fare con la politica. Sorrise. Con un dito mi avete suonato l'inno, Bernadotte. E da quello avete tirato fuori questa cosa, Beethoven, disse Giambattista commosso. Seguì una piccola pausa. Monseigneur, bisbigliò uno degli aiutanti. Giambattista si drizzò sulla persona, si passò la mano sul viso come se volesse scacciare i ricordi. Monsieur van Beethoven, vi ringrazio del concerto. Vi auguro un felice viaggio a Gottinga e spero con tutto il cuore che il professore non vi deluderà. Poi si rivolse ai nostri invitati, agli ufficiali della guarnigione con le loro signore e ai maggiorenti della società di Hannover. Desidero prendere congedo da voi. Domani mattina con le mie truppe parto per il campo. Giambattista si inchinò sorridendo. Ordine dell'imperatore. Buonanotte, signore e signori. Poi mi offerse il braccio. Sì, siamo stati felici ad Hannover. Il chiarore giallo delle candele lottava col grigio del mattino sorgente quando Giambattista si accomiatò da me. Tu partirai oggi stesso con Oscar per Parigi, disse. Fernando aveva già da un pezzo preparato il bagaglio da campo di Giambattista. L'uniforme a ricami d'oro di maresciallo stava accuratamente protetta dalle sue fodere, in una valigia da viaggio. Portavano con loro argenteria per 12 persone e un misero e stretto letto da campo. Giambattista indossava una semplice, liscia uniforme con le spalline da generale. Presi la sua mano e me la serrai al viso. Ragazzina, non dimenticare di scrivermi spesso. Il ministro della guerra mi trasmetterà le tue lettere. Lo so, dissi io, Giambattista, non finirà proprio più. Dovrà continuare così per sempre. Dà un grosso bacio per me ad Oscar, ragazzina. Giambattista, ti ho domandato se dovrà continuare sempre così. Ah, ordine dell'imperatore, conquistare e occupare la Baviera. Sei la moglie di un maresciallo di Francia, non devi stupirtene, disse lui freddamente. La Baviera? E quando avrai conquistato la Baviera, tornerai da me a Parigi o torneremo insieme ad Hannover? Dalla Baviera marceremo contro l'Austria. Ah, e poi non abbiamo più frontiere da difendere. La Francia non ha più frontiere. La Francia è l'Europa, disse Giambattista. E i marescialli di Francia marciano, bambina mia. Ordine dell'imperatore. Se penso a quante volte ti è stato offerto allora di assumere il potere, se tu allora Désirée. La sua voce squillò dura, recisa come un divieto, e poi più sommessa. Ragazzina. Io ho incominciato da semplice soldato e non sono stato mai alla scuola di guerra, ma non mi sono mai immaginato di poter pescare una corona nel rigagnolo della strada, perché io non pesco nei rigagnoli. Non dimenticarlo, non dimenticarlo mai. Soffiò sulla candela, attraverso la tenda filtrava pallido e inesorabile un mattino di commiato. Poco prima che io montassi nella mia carrozza da viaggio, Monsieur Van Beethoven mi si fece ancora una volta annunciare. Avevo già il cappello in capo e Oscar se ne stava accanto a me e stringeva fiero la sua valigia quando egli entrò. Lento e maldestro, mi si avvicinò e fece una riverenza sgraziata. Vorrei che voi, balbettò un poco, poi si riprese, che voi comunicaste al generale Bernadotte che non posso dedicare la mia nuova sinfonia neppure all'imperatore dei francesi, anzi, a lui meno che a tutti. Tacque un poco. Chiamerò la sinfonia semplicemente l'eroica, a ricordo di una speranza che non è stata esaudita, sospirò. Il generale Bernadotte mi comprenderà. Glielo comunicherò e certamente lui vi comprenderà, monsieur, dissi, e gli tesi la mano. Sai, mamma, che cosa voglio diventare? Mi domandò Oscar mentre la nostra vettura percorreva strade interminabili. Voglio diventare musicista. Credevo che volessi diventare sergente o maresciallo come papà, o negoziante di seta come tuo nonno, risposi distrattamente. Tenevo da un pezzo il mio diario sui ginocchi sollevati e stavo scrivendo. Ho pensato bene, voglio diventare musicista, compositore come questo Monsieur Beethoven, oppure re. E perché re? Perché un re può fare molto bene alla sua gente, me lo ha detto uno dei domestici del castello, perché prima ad Hannover c'era un re, prima che l'imperatore vi mandasse papà, lo sai? Adesso perfino mio figlio, che ha 6 anni, ha scoperto la pochezza della mia cultura. Compositore o re, insistette. Allora è meglio re, gli consigliai. È più facile. Parigi, 4 giugno 1806. Se soltanto sapessi dove si trova, Pontecorvo. Ma domattina potrò leggerlo nei giornali. Non serve torturarsi il cervello per questo. Voglio piuttosto scrivere ciò che mi è accaduto da quando sono tornata dalla Germania. Oscar aveva la tosse canina e gli era stato proibito di uscire. Le mie amiche evitavano la mia casa come se avessi la peste, per la gran paura di contagiare i loro bambini. A Natale eravamo tutti soli, noi tre, Oscar, Maria ed io. Ho regalato ad Oscar un violino e gli ho promesso che gli farò dare delle lezioni non appena sarà guarito. Ogni tanto veniva a visitarmi Giulia, si sedeva in salotto e si faceva portare della cioccolata calda e massaggiare le gambe da Maria, perché per il girare e lo stare in piedi durante i grandi ricevimenti che lei e Giuseppe devono dare in assenza dell'imperatore, le si gonfiano le caviglie. Io invece dovevo rimanere nella sala da pranzo per non contagiarla. Chiacchieravamo attraverso la porta aperta, o più esattamente, Giulia mi urlava tutte le novità. Tuo marito ha conquistato la Baviera, verrà domani sul Moniteur, mi gridò un giorno verso la fine dell'autunno. Si è scontrato in Baviera con le truppe austriache e le ha battute. Adesso tiene occupata Monaco. Maria, devi massaggiare un po' più energicamente, del resto, se no, non serve. Tuo marito è un grande condottiero, Desiré. In ottobre, ella disse di sfuggita, abbiamo perduto tutta la nostra flotta. Ma Giuseppe dice che non fa nulla. L'imperatore farà vedere lo stesso ai nostri nemici chi comanda l'Europa. Ai primi di dicembre arrivò addirittura senza fiato. Abbiamo vinto una gigantesca battaglia e domani Giuseppe ed io daremo un ricevimento per 1.000 invitati. Dalle Rouen stanno lavorando tutta la notte per farmi un abito nuovo, color rosso vino. Desiree, che cosa ne dici? Il rosso non ti sta bene, Giulia. Che cosa sai di Giambattista? È sano? Sano? Altro che sano, cara. Giuseppe dice che l'imperatore è addirittura in debito verso di lui, tanto ha saputo disporre bene le cose. Sai, 5 corpi d'armata hanno preso parte alla battaglia di Austerlitz. Dove si trova Austerlitz, Giulia? Oh, non ne ho la più lontana idea, ma fa lo stesso. In qualche parte della Germania, probabilmente. Ascolta, 5 corpi d'armata al comando di Lannes, Murat, Soult, Davout e di tuo marito. Giambattista e Soult hanno tenuto il centro. Quale centro? E che ne so io? Il centro della linea del fronte, suppongo. Io non sono una stratega. Napoleone con i 5 marescialli stava su di una collina e tutti i nemici della Francia adesso sono stati battuti per sempre. Avremo definitivamente la pace, Desiré. Hai ancora un po' di cioccolata, Maria? La pace, dissi io soltanto e cercai di figurarmi il ritorno di Giambattista. Allora verrà finalmente a casa, gridai verso il salotto. A quanto pare già in viaggio. Adesso dobbiamo governare tutta l'Europa e lui deve rifletterci su, gridò rispondendo Giulia. A lui non importa niente di tutta l'Europa. Adesso deve tornare a casa perché Oscar non fa che domandare di lui, gridai io a mia volta. Ah, tu parli di Gian Battista. Io invece parlavo dell'imperatore. L'imperatore sta ritornando. Gian Battista per ora non può venire, dice Giuseppe. Adesso l'imperatore lo ha incaricato di amministrare, oltre all'Hannover, anche Ansbach. Ad Ansbach dovrà costituirsi una corte come si deve e governerà alternamente là e ad Hannover. E tu dovrai andare da lui, ad Ansbach, e vedrai tutto. Io non posso mettermi in viaggio, Oscar ha la tosse canina, dissi. Giulia non mi udì. Trovi davvero che il rosso mi sta male? Giuseppe è così contento di vedermi in rosso, è un colore da principi, dice lui. Ahi, Maria, adesso massaggi troppo forte. Perché non rispondi, Desiree? Sono triste, ho nostalgia di Gian Battista. Perché non può prendersi un po' di congedo? Oh, non ragionare come una bambina, Desiree. Come fa l'imperatore a tenere i territori conquistati se non li fa amministrare dai suoi marescialli? Già, come fa a tenerli? Pensai con amarezza. Dopo questa nuova battaglia lui governa tutta l'Europa, con l'aiuto di 18 marescialli, e io, proprio io, ne ho sposato uno. Ci sono dei milioni di francesi e soltanto 18 marescialli. E di questi 18 me ne sono andata a cercare uno proprio io e lo amo tanto e mi struggo per lui. Venne la primavera e Gian Battista era ancora lontano. Le sue lettere erano brevi e affrettate, governava ad Ansbach e cercava di introdurre colà le stesse riforme che già aveva introdotto ad Hannover. Scriveva che dovevo raggiungerlo non appena Oscar si fosse completamente rimesso in salute, ma Oscar migliorava molto lentamente. Gli davamo da bere molto latte, lo portavamo nel nostro piccolo giardino a prendere il sole di primavera. Giuseppina venne una volta a farmi visita, trovò che non curavo bene le mie rose e mi mandò al suo giardiniere della Malmaison. Il giardiniere chiese un forte compenso e tagliò le mie rose così male che quasi non ne rimase più nulla. Finalmente si cessò di avere paura di Oscar e Ortensia lo invitò a giocare con i suoi due maschietti. Da quando Napoleone ha adottato questi suoi figli, Ortensia e Luigi Bonaparte si sono messi in mente che il ragazzo più anziano debba ereditare la corona imperiale di Napoleone. Intanto Giuseppe è convinto che il trono toccherà a lui, perché poi Giuseppe debba sopravvivere a suo fratello, di lui più giovane, e perché Napoleone non debba nominare erede un figlio suo, ora che la lettrice di Giuseppina, Eleonore Revel, nel dicembre scorso in gran segretezza, ma tra molti pettegolezzi, ha messo al mondo il suo piccolo Leon, sono cose che non riesco a capire. Forse l'imperatrice riuscirà ancora a fare quel che le è riuscito nel suo primo matrimonio, ma sono tutte cose che, grazie al cielo, non mi interessano. Come ho detto, il mio Oscar è stato invitato dai figli di Ortensia e 2 giorni dopo aveva la febbre e non voleva mangiare. Adesso non mi evitano più come un'appestata, mi evitano come una lebbrosa. Il mio Oscar ha il morbillo. È stato qui il dottor Corvisart e ha prescritto degli impacchi freddi per sedare la febbre di Oscar. Ma non hanno giovato. Oscar delira e intanto chiama disperatamente il suo papà. Di notte vuol dormire soltanto nel mio letto, allora lo stringo forte e il piccolo viso, infiammato dalla febbre, posa sulla mia spalla e a me sembra di potergli dare forza e salute soltanto tenendolo stretto e serrato contro di me. Forse mi contagerò anch'io, forse no. Maria dice che da bambino ho avuto anch'io il morbillo e che questa malattia la si fa raramente 2 volte. Il magro corpicino di Oscar è tutto coperto di vescichette rosse e il dottor Corvisart ha detto che non deve grattarsi. La mia lettrice non riesco più a vederla. Dio sa a chi legge, a me no di certo. Ha tanta paura del morbillo. Mi indispettisco soltanto perché devo pagarlo ugualmente lo stipendio, ma da quando Gian Battista è diventato maresciallo ne abbiamo tante di queste spese senza senso. Di nuovo i giorni passavano, sempre uguali, fino al momento in cui improvvisamente comparve Giulia. Da quando Oscar ha il morbillo, lei non viene neppure più nella mia sala da pranzo. Mi manda soltanto la sua cameriera per informarsi della mia salute. Ma un pomeriggio di primavera, eccola tutta agitata nel mio salotto. Io comparvi sull'uscio che dal giardino conduce in casa ed ella gridò subito: "Non avvicinarti, altrimenti ci contagi e le mie bambine sono così delicate. Voglio soltanto essere la prima a portarti la grande novità. È una cosa straordinaria." Il cappello le stava storto. Piccole gocce di sudore le imperlavano la fronte. Era pallidissima. «Per l'amor di Dio, che cosa è accaduto ora?» domandai spaventata. «Sono diventata regina! Regina di Napoli!» Giulia esalò quasi senza voce queste parole. I suoi occhi erano spalancati per lo sgomento. Dapprima credetti che fosse malata. «Ha la febbre! Si è buscata chissà dove il morbillo, non certo a casa nostra!» «Maria!» gridai. «Maria, vieni subito! Giulia non si sente bene!» Maria comparve, ma Giulia fece un cenno di diniego. «Lasciami stare! Non mi sento affatto male! Devo soltanto abituarmi a quest'idea! Regina!» «Io sono una regina! Mio marito, Sua Maestà il Re Giuseppe, e io, Sua Maestà la Regina Giulia! Oh, tutto questo è terribile, Desire! Dovremmo andare di nuovo in Italia e abitare in quei mostruosi palazzi di marmo!» «Il suo povero papà non sarebbe stato soddisfatto, Mademoiselle Giulia», intervenne Maria. «Tieni a posto la lingua!» «Maria!» l'aggredì Giulia. Non l'avevo mai sentita parlare così con la nostra Maria. Maria strinse le labbra e uscì a passi pesanti dalla stanza e sbatté l'uscio. Ma quasi subito la porta si riaprì, comparve la mia dama di compagnia. Madame Laflotte portava il suo abito più bello e si sprofondò davanti a Giulia in un grande inchino, come davanti all'imperatrice. «Maestà, posso congratularmi?» bisbigliò. Dopo che Maria era uscita rabbiosa dalla stanza, Giulia era crollata. Ora si raddrizzò tutta e si passò la mano sulla fronte. Gli angoli della bocca le tremavano, poi si riprese completamente e fece la faccia di una cattiva attrice che voglia assumere un aspetto regale. «Grazie. Come sapete quel che è avvenuto?» domandò con una voce nuova, non più sua. La mia dama di compagnia era ancora curva davanti a Giulia sul tappeto. «Oh, in città non si parla d'altro. Maestà!» e senza alcun nesso. «Vostra maestà è troppo benevola!» «Lasciatemi sola con mia sorella», disse Giulia con la sua voce insolita. Dopodiché la mia dama di compagnia, con la schiena verso l'uscio, cercò di uscire dalla stanza. Io osservavo con interesse questa manovra. Quando alla meglio si fu rinfilata nella porta, dissi soltanto: «Quella a quanto pare crede di essere a corte. In mia presenza, d'ora in poi ci si deve comportare come a corte», disse Giulia. «Giuseppe metterà insieme nel pomeriggio di oggi una vera e propria casa reale». Serrò le strette spalle, pareva che avesse dei brividi di freddo. «Desire, sono così sgomenta!» Cercai di farle coraggio. «È assurdo, tu resti poi sempre quella che sei!» Ma Giulia scosse il capo e si coperse il volto con le mani. «No, no, non ci posso far nulla, non riesco a capacitarmi! Sono diventata davvero una regina!» E incominciò a piangere dirottamente, ed io, senza pensarci, mi avvicinai a lei e subito gridò: «Non devi toccarmi, va via! Il morbillo!» Tornai di nuovo sull'uscio del giardino. «Yvette! Yvette!» comparve la mia cameriera. Quando vide Giulia, si sprofondò anch'ella in un inchino di corte. «Una bottiglia di champagne, Yvette!» Giulia disse. «Oh, non mi sento all'altezza del mio compito. Ancora più ricevimenti, balli di corte in un paese nuovo. Dobbiamo lasciare Parigi. Oh, oh no!» Yvette tornò con lo champagne e due bicchieri. Inchino di corte, io le feci cenno di uscire. Poi riempì un bicchiere per Giulia e uno per me. Giulia prese il bicchiere e incominciò a bere a sorsi rapidi e avidi. «Alla tua fortuna, cara, penso che sia un'occasione per congratularmi con te», dissi. «Sei stata tu a combinare tutto questo pasticcio. Tu hai portato allora Giuseppe in casa nostra», rispose sorridendo però. Mi venne in mente quel che sussurrava la gente, che Giuseppe tradisce Giulia. Amoretti da poco, nulla di più. Giuseppe si è accorto da un pezzo di non essere un grande scrittore e adesso presume assai del suo talento politico e ormai è re. Il cognato Giuseppe. «Spero che tu sarai felice con Giuseppe», dissi soltanto. «Da solo non lo vedo che raramente», rispose Giulia e guardò fisso oltre me nel giardino. «Forse sarò felice. Ho le bambine, la mia Zenaide e la piccola Carlotta Napoleone. Le tue figlie ora diventano principesse e tutto andrà per il meglio. Sorrisi io. Intanto cercavo di realizzare nel modo più esatto le cose. Giulia è regina, le sue figlie sono principesse e Giuseppe, il piccolo segretario della Maison Commune che ha sposato Giulia per la sua dote, è re Giuseppe I di Napoli. L'imperatore, vedi, ha deliberato di fare dei territori occupati altrettanti stati indipendenti che saranno governati dai principi e dalle principesse imperiali. Stati che naturalmente saranno legati alla Francia da trattati d'amicizia. Noi, Giuseppe ed io, governeremo Napoli e la Sicilia. Elisa è diventata duchessa di Lucca. Murat sarà duca di Clèves e Berg. Per l'amor del cielo, è la volta dei marescialli adesso? Domandai spaventata. No, Murat è marito di Carolina e Carolina sarebbe mortalmente offesa se anche lei non potesse disporre delle entrate di qualche paese. Respirai sollevata. Qualcuno deve bene governare questi paesi che noi abbiamo conquistati, disse Giulia. Noi chi? Domandai io, caustica. Giulia non rispose. Si versò ancora un bicchiere di vino, bevve di nuovo in fretta e disse: Ho voluto essere la prima a raccontarti tutto e adesso devo andarmene. Le Rois farà le mie toilette ufficiali. Tanta porpora!